Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. C'è la voglia di fare, c'è la voglia di andare ai mondiali, abbiamo lavorato per questo, c'è grande convinzione da parte di tutti e siamo convinti che ci andremo. Quindi abbiamo queste due partite, noi abbiamo grandissimo rispetto della Svezia perché è nelle nostre stesse condizioni, si è guadagnata i playoff e quindi c'è grande rispetto ma c'è anche grande convinzione. E se è convinto lui, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il CT della nazionale italiana Ventura di andare ai mondiali, e allora sono convinti tutti. Sapete che domani c'è la partita di andata contro la Svezia dell'Italia e poi lunedì ritorno a San Siro. Infatti qui i biglietti sono tutti esauriti da parecchio e ci sarà anche uno speciale di Effetto Notte che riguarderà appunto questa partita cruciale. Intanto però, concentrandoci su stasera, ci occuperemo sì anche della vigilia di questa partita e però anche di cose diciamo meno piacevoli, come i fatti che sono successi ad Ostia. Ieri ne abbiamo parlato ampiamente. Stasera avremo anche la giornalista che tante volte si è occupata dei clan a Ostia, delle infiltrazioni malavitose, che proprio per questo da tempo gira praticamente sotto scorta, e sarà qui a Effetto Notte. Ci occuperemo di politica e anche di Banca Italia, che torna in primo piano perché oggi sono state le audizioni alla commissione d'inchiesta sulle banche, commissione parlamentare. Tante cose come sempre, quindi allacciate le cinture. Sappiate che i vostri commenti potete ben scriverli su Effetto Notte, la pagina Facebook del programma, oppure con WhatsApp ed SMS al numero 349-238-6666. Quindi commenti, riflessioni, dubbi, domande, pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Quindi, prima di cominciare a interloquire con gli ospiti, vi racconto in sintesi la giornata. Banche, la commissione d'inchiesta cancella il confronto tra Banca Italia e Consob, oggi solo audizioni separate, divergenze sulle valutazioni, non sui fatti, precisa Casini. Ostia, arrestato Roberto Spada per la violenta aggressione, la truppa della RAI l'accusa, lesioni aggravate da contesto mafioso. Effetto Notte, vi dicevo, la giornalista che per le sue inchieste sulle infiltrazioni malavitose è sotto scorta. Catalogna, la procura spagnola ha chiesto la detenzione preventiva per la presidente del Parlamento catalano, Carme Forcadell, e poi ci potrebbero essere tra poco degli aggiornamenti. Una minorenne denuncia uno stupro, un prete su Facebook scrive: non provo pietà, poi si scusa. Intanto sono stati scarcerati due uomini, un rumeno e un senegalese, che violentarono una 18enne filmando la violenza. Medicina, intervento raro a Roma, al Bambin Gesù, separate due gemelline siamesi di 17 mesi, unite per l'addome. Calcio, azzurri alla vigilia del primo confronto con la Svezia. Siamo convinti che andremo ai mondiali, dice il CT Ventura. E partiamo quindi dal tema delle banche. Con i lavori della commissione d'inchiesta c'è stato un botta e risposta tra Banca Italia e Consob, un po' uno scambio di accuse e tante reazioni politiche conseguenti. Un faccia a faccia che era atteso da giorni, quello tra Banca Italia e Consob sulle banche venete. Il confronto all'americana alla fine non c'è stato. La commissione d'inchiesta ha ritenuto sufficienti gli interventi separati dei rappresentanti dei due istituti. Non sono mancate comunque le accuse reciproche sul perché di fatto nessuno intervenne di fronte ai segnali di crisi dell'istituto veneto. Banca d'Italia non ci segnalò problemi in vista dell'aumento di capitale del 2013, si difende il direttore generale della Consob, Angelo Apponi. A me non sembra che Banca d'Italia, che è il soggetto che tra l'altro si dovrebbe occupare della stabilità della banca, ci segnali che c'è un problema di sofferenza, c'è un piano d'acquisti. La replica di Via Nazionale nelle parole del capo della vigilanza Carmelo Barbagallo, che spiega: nel novembre 2013 la Banca d'Italia segnalò alla Consob che il prezzo per l'aumento di capitale di Veneto Banca era incoerente con il contesto economico. Questa è l'informativa che noi mandiamo alla Consob e diciamo: risulta d'ostacolo al compimento di operazioni societarie per le ricadute sulla stabilità dell'azionariato. Chiuso il capitolo delle banche venete, la commissione affronterà dal prossimo martedì il caso Monte dei Paschi di Siena. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Nel giorno dello scambio di accuse tra Consob e Banca Italia, le forze politiche attaccano e si dividono sulla questione. Matteo Renzi ricorda che la commissione d'inchiesta l'ha voluta il PD. Sta lavorando bene per capire chi ha sbagliato e chi deve pagare. Non è né populismo né giustizia. Abbiamo fatto la riforma delle popolari che ha salvato il sistema. Adesso puntiamo ad un fondo per il risparmio tradito. All'attacco invece il Movimento 5 Stelle, con Luigi Di Maio che parla di teatrino drammatico. Una di quelle istituzioni che doveva fare la sorveglianza sui prodotti accusa l'altra istituzione che doveva fare la sorveglianza sugli istituti. Abbiamo di fronte un'altra ennesima situazione nella quale il Movimento 5 Stelle aveva ragione. Ma anche per Forza Italia la vigilanza non ha funzionato, a dirlo Renato Brunetta. Banca Italia e Consob si sono dimostrati inadeguati e ci si poteva aspettare di più. Stesso parere della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che promette di rendere pubblica l'attività di vigilanza. A sinistra Stefano Fassina chiede a Renzi di sostenere maggiormente i risparmiatori truffati. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso il tema delle pensioni, un nuovo meccanismo di calcolo. Questa è la proposta dei sindacati al governo, che dicono questo nuovo meccanismo di calcolo dell'aspettativa di vita, a cui agganciare l'età della pensione a partire dal 2021, che consideri la media di un biennio, cioè ogni due anni faccia questo calcolo, confrontata con il biennio precedente da cui ricavare lo scostamento, un meccanismo che considererebbe anche eventuali cali della speranza di vita. Quindi questa è la proposta dei sindacati, è stato comunicato al termine del tavolo tecnico di oggi a Palazzo Chigi. Importanti passi avanti, ha annunciato il ministro Poletti. C'è un confronto in piedi, anche oggi c'è stato un momento di discussione, naturalmente lunedì ci sarà l'incontro con il Presidente del Consiglio, con i segretari confederali. Io credo che quando si attiva un confronto sia sempre un elemento positivo, perché consente a ognuno di mettere in campo le proprie considerazioni, le proprie valutazioni. Credo che dal punto in cui siamo partiti ad oggi siano stati introdotti degli elementi positivi di novità. Naturalmente ognuno avrà poi in fondo a questo percorso la responsabilità di valutare se il punto raggiunto è soddisfacente o meno, ma io credo che sia comunque una cosa importante che questo confronto si sia sviluppato. E ora parliamo di crescita economica, ci spostiamo quindi a Bruxelles. L'Italia è il paese che ha la croissance la più faible. Ça n'est pas faux, mais c'est aussi un pays qui a une vraie reprise. Et c'est le message que l'Italia, dice in francese il commissario Moscovici, il commissario europeo, l'Italia è il paese che ha la crescita più debole in Europa, ma ha una ripresa vera ed è sulla strada giusta, ha detto così Moscovici, l'avete sentito, ha detto che, commentando le previsioni d'autunno della Commissione europea, che ha alzato le stime per il nostro paese a più 1,5% per il 2017, in linea quindi alle stime del governo, e più 1,3 nel 2018. Nel 2019 è previsto però un rallentamento più 1%. E arriviamo così ai fatti di Ostia, arrestato nel pomeriggio dai carabinieri Roberto Spada per l'aggressione alla truppa di Nemo di Rai 2. E Casa Pound intanto nega legami con il clan Spada. Roberto Spada, protagonista due giorni fa dell'aggressione a una troupe Rai, è stato portato via in manette su disposizione della procura, che ha emesso un decreto di fermo con l'accusa di violenza privata aggravata dal metodo mafioso, mentre alcune delle persone presenti all'operazione insultavano i carabinieri. Intanto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha annunciato per sabato prossimo una manifestazione a Ostia contro la criminalità, mentre Casa Pound, finita al centro delle polemiche proprio per un endorsement di Spada via Facebook ricevuto alla vigilia del voto, respinge le accuse di contiguità col clan criminale, parla di strumentalizzazioni politiche e col vicepresidente del movimento Simone Di Stefano invoca l'intervento delle istituzioni. Chiediamo alla politica tramite inchieste parlamentari e alla magistratura tramite un'inchiesta di magistratura di tirare fuori la verità su questa vicenda. Nel frattempo una troupe di Sky TG24 nel pomeriggio è stata derubata a Ostia dell'attrezzatura e domattina a manifestare sul luogo del pestaggio ci saranno giornalisti, reporter e videomaker in solidarietà ai colleghi e per la libertà di lavorare senza essere aggressivi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi, come vi anticipavo, nel corso di Effetto Notte ci collegheremo con la giornalista di Repubblica che per le sue inchieste sulle infiltrazioni malavitose a Ostia è da tempo sotto scorta. Ora ci spostiamo all'estero con la Catalogna, perché ci sono delle novità. Sergio Nava, ciao Sergio. Sì, ciao Roberta. Beh, in realtà si stanno aspettando novità, perché si sta aspettando che il giudice del Tribunale Supremo Pablo Llarena dica cosa intende fare, qual quale decisione intende prendere sulla richiesta della procura che ha chiesto 4 detenzioni preventive per la crisi catalana e anche la dichiarazione di indipendenza votata a fine ottobre al Parlamento catalano, e stavolta sul banco degli imputati c'è proprio l'ufficio di presidenza del Parlamento catalano, tra cui la stessa presidente Carme Forcadell, quindi potrebbero salire a 14 stanotte i detenuti nelle carceri di Madrid, detenuti indipendentisti, sia politici sia attivisti. Per altri 2 invece politici dell'ufficio di presidenza è stata chiesta o una libertà provvisoria con cauzione oppure una libertà provvisoria con misure cautelative. Però c'è grande attesa perché appunto potrebbero salire a 14 stanotte, lo ripetiamo, i detenuti nelle carceri di Madrid. Grazie Sergio Nava. Grazie Sergio. E adesso parliamo di migranti. Vi ricordate la nave che era arrivata nel porto di Salerno con 26 ragazze morte? Non ci sono segni di violenza sessuale sui corpi di almeno 12 di queste 26 ragazze di questa nave spagnola sbarcata a Salerno domenica scorsa, ma ci sono vecchie tracce di frustate, di bruciature, alcune erano state infibulate in tenera età, le mutilazioni genitali che subiscono milioni di ragazze e di donne nel mondo. Si presume quindi che non tutte siano di religione cattolica. Questi segni, queste antiche lacerazioni, mutilazioni, raccontano un dramma che insomma purtroppo nessuno può più indagare. E adesso occupiamoci anche di glifosato, questo potente erbicida che divide l'Europa, è stallo per il momento in Europa su questo argomento. I paesi dell'Unione Europea per l'ennesima volta infatti non sono riusciti o a esprimere una maggioranza qualificata pro o contro il rinnovo per 5 anni della licenza per l'erbicida, accusato di avere effetti nocivi anche gravi sulla salute umana. L'ultima occasione quindi sarà il comitato d'appello che la Commissione Europea potrebbe convocare per il prossimo 27 o 28 novembre, insomma si riesce a trovare un accordo su questo erbicida che è sospettato appunto di causare gravi danni alla salute umana. In Italia adesso un sacerdote contro una vittima di stupro a Bologna. La Chiesa prende le distanze e poi sono arrivate le sue scuse. Ho sbagliato i termini, i modi, le correzioni. Non posso perciò che chiedere scusa alla ragazza e ai suoi genitori. Così Don Lorenzo Guidotti, sacerdote a Bologna, si scusa dopo le polemiche suscitate da un suo post su Facebook in cui commentava un caso di cronaca avvenuto nella sua città che vede vittima una ragazza che giorni fa ha denunciato una violenza sessuale. Il parroco di San Domenico Savio, rivolgendosi proprio alla giovane, aveva scritto: «Tesoro, mi dispiace, ma se frequenti brutti posti e brutta gente come i magrebini e ti ubriachi, sono solo cavoli tuoi se ti risvegli chissà dove. Chi sceglie la cultura dello sballo, lasci che si divertano anche gli altri. Non provo nessuna pietà per te». Poi, riferendosi agli immigrati che la ragazzina frequentava, il parroco aggiungeva: «Adesso capisci che oltre all'alcol ti eri già bevuta tutta la tirata ideologica sull'accogliamoli tutti». A rendere pubblico il post privato solo per gli amici di Don Guidotti, già conosciuto per le sue opinioni sopra le righe, un'emittente cittadina, Radio Città del Capo. La senatrice PD Puglisi, presidente della Commissione contro il femminicidio, aveva chiesto un intervento dell'arcidiocesi di Bologna, che poco dopo, in una nota, aveva preso le distanze dalle parole del sacerdote. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sempre a proposito di violenze sessuali, il Tribunale della Libertà di Bologna ha annullato le ordinanze di custodia cautelare disponendo l'immediata scarcerazione per il 25enne romeno e il 27enne senegalese bloccati, vi ricordate, settimane fa dalla polizia a Ravenna per violenza sessuale di gruppo, il primo con l'accusa di aver stuprato una 18enne ravennate ubriaca e il secondo per aver filmato il rapporto con un cellulare. Questa notizia che arriva dal Vaticano con Papa Francesco che ha deciso che il Vaticano terminerà la vendita di sigarette ai propri dipendenti a partire dal 2018. Il motivo è molto semplice: la Santa Sede non può contribuire a un esercizio che danneggia chiaramente la salute delle persone. A proposito di salute e di medicina, un intervento raro a Roma, il Bambin Gesù, questo straordinario intervento chirurgico, dove il 7 ottobre, si ha notizia adesso, sono state separate 2 gemelline siamesi di 17 mesi, algerine, unite per l'addome e il torace. Un mese dopo l'intervento le bimbe stanno bene, è un intervento durato 11 ore e uno dei pochissimi casi di separazione di siamesi effettuati in Italia. Per chiudere il calcio, l'avete sentito all'inizio, il CT Ventura, il tecnico della nazionale, ha detto: c'è una gran voglia e rispetto per la Svezia, ma anche convinzione che andremo ai mondiali. Domani c'è la partita d'andata, vi dicevo, lunedì quella di ritorno. Bene, adesso ritorno dopo l'aggiornamento per chi sta viaggiando con i primi ospiti per affrontare i primi temi. Le vostre riflessioni al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vedo già commenti sulla su per esempio Banca Italia e Consob, dice Gianni da Bologna, Banca Italia ha solo il coraggio di dire che non si può abbassare l'età pensionabile, facessero il loro lavoro per favore, insomma vari messaggi critici, mentre allora non è mio, diciamo, mia abitudine fare questi saluti così mirati, ma ci sono questo gruppo di ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta che dicono che ascoltano tutte le sere effetto notte, come allora non salutare questo gruppo di ragazze così costantemente informate? Fatelo anche voi, di seguire puntualmente tutte le sere dalle 21 alle 22 effetto notte, tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. A proposito di notizie, Roberto Giordano sempre con voi, c'è questo ascoltatore che sulla vicenda di Ostia, sul membro della famiglia Spada, Roberto Spada, che ieri, due giorni fa anzi, ha rotto il naso a un giornalista, dice: i giornalisti si sentono sempre aggrediti ma non pensano mai che sono loro gli aggressori. Non so se questo ascoltatore vuole dire che anche in questo caso l'aggressore, non so se ha visto il video, se ha sentito l'audio, poi dopo ci ritorniamo su questo argomento, adesso invece ci occupiamo di altro. 349-238-6666 per i vostri messaggi WhatsApp oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Qualcuno già sta commentando quello che ha detto Grasso oggi, ne parleremo anche di questo. Grasso che ha detto: sono io che ho lasciato il PD, il Presidente del Senato, oppure il PD che non è più quello di una volta, che non esiste più, e dice che il vero PD era quello di Bersani e di Sel. La politica però dopo, adesso un altro tema, ma le notizie più importanti, se non avete seguito all'inizio, ve le ricordo adesso. Scontro tra Banca Italia e Consob sul default delle banche, delle venete in particolare, però poi salta il confronto all'americana nella commissione, cioè il faccia a faccia. La crescita dell'Italia che si rafforza ma resta comunque l'ultima nell'Unione Europea. Fermato Roberto Spada per l'aggressione di Ostia, l'accusa è lesioni aggravate dal contesto mafioso. E poi il presidente del Senato Grasso che dice: il PD non c'è più, quello vero era quello di Bersani, mentre Renzi salda l'asse con Franceschini e c'è invece il gelo di Prodi sul Partito Democratico. E poi un giallo sull'ex primo ministro libanese Hariri, trattenuto a Riyadh. L'Arabia Saudita dice ai suoi cittadini: via subito dal Libano. Poco fa anche il Kuwait ha detto ai suoi cittadini di lasciare immediatamente il Libano. E poi questa giovane che ha denunciato uno stupro con il prete, che dice questo sacerdote di Bologna: te la sei cercata. Poi per fortuna almeno ha avuto la decenza di chiedere scusa. Intervento raro a Roma, separate due gemelline siamesi di 17 mesi. Quindi dicevamo che torna in primo piano il ruolo di Banca Italia rispetto alla crisi delle banche, diciamo il suo ruolo di vigilanza naturalmente, messo in discussione, vi ricordate, dalla mozione del PD di qualche settimana fa approvato alla Camera, che poi ha suscitato tante polemiche, e fino ad arrivare alla riconferma del governatore della Banca d'Italia Visco. La nuova puntata di questa vicenda è questa audizione che c'è stata oggi in sede di commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, in cui il direttore generale della Consob, Angelo Apponi, ha detto: Banca Italia non segnalò alla Consob problemi di Veneto Banca in vista dell'aumento di capitale del 2013. Se avessimo avuto segnali di quella profondità, che poi abbiamo ricevuto solo due anni dopo, avremmo reagito in maniera diversa, ha aggiunto Apponi. C'è stata poi la replica del capo della vigilanza di Banca Italia, Barbagallo, che ha detto: Banca Italia segnalò che il prezzo per l'aumento di capitale di Veneto Banca era incoerente. Bastava questo a Consob per inviare il warning, l'allarme. Insomma, è uno scontro tra Consob e Banca Italia, quantomeno uno scambio di accuse. Davide Colombo del Sole 24 Ore. Ciao Davide. Ciao Roberta. Sì, diciamo che qualche scintilla si è vista oggi in commissione d'inchiesta sulle banche. Diciamo che la versione della Banca d'Italia, cioè che questa informativa del 25 novembre 2003 relativa all'ispezione che era stata conclusa nel 2012 era più che sufficiente per far scattare l'allarme dell'altra autorità, è un po' l'elemento su cui le due testimonianze si sono distanziate. Nel 2015, quando effettivamente Consob ha aperto una sua ispezione sulla banca Veneto Banca, a quel punto ha preso visione della relazione completa dell'ispezione della Banca d'Italia, dove ha riscontrato una serie di altri elementi. Però insomma, nella versione di Banca Italia, già nel 2013, nella lettera di due cartelli che si sintetizzava, diciamo, gli elementi già gravi emersi sull'ispezione del 2012, secondo appunto Via Nazionale, c'erano tutti gli elementi, diciamo, perché la Consob prendesse un'iniziativa. Diciamo che dietro questo confronto, che secondo quello che ha stabilito per ora il presidente Casini non dovrebbe portare a un vero e proprio confronto all'americana, è stato una testimonianza. Cioè un faccia a faccia, no? Il confronto all'americana. Faccia a faccia, i due sono stati sentiti in chiave di testimoni ai sensi del codice di procedura penale, cioè quello che hanno detto emesso a verbale potrebbe essere, appunto, se si riscontrano delle situazioni che i commissari ritengano da segnalare all'autorità giudiziaria, questo può avvenire. Non mi pare che siano emerse cose di questo tipo. È emerso una diversa interpretazione di quello che poteva essere fatto, diciamo, tra il 2013 e il 2015, se lo si vede dal punto di vista in particolare della Consob. Certo, è un confronto che a 4 anni di distanza, oramai siamo alla fine del 2017, sui doppi aumenti di capitale che le due banche venete avevano messo in campo, fa un po' riflettere, nel senso che la sensazione è che non è che da qui, da questo tipo di confronto, si può ottenere un qualche tipo di appunto verità fattuale che consente di capire come sono andate crisi, le cose, chi sono i responsabili. Anche perché diciamo che siamo alle porte per Veneto Banca, per esempio, del processo che si celebrerà a Roma, se le richieste di rinvio a giudizio verranno accolte, e quindi dietro l'angolo dovrebbe esserci una verità di tipo giudiziario a questo punto. Certo è che una delle vicende che si è imposta, che è stata imposta dai nostri leader politici, che caratterizzerà sicuramente la campagna elettorale, oggi mentre in commissione d'inchiesta a Palazzo San Macuto si svolgeva questa lunga doppia testimonianza, quasi 6 ore di confronto con i commissari, sulle agenzie fioccavano dichiarazioni, le varie reazioni che tra poco commenteremo, infatti, diciamo, ecco, quindi con Barbara c'è un fronte molto di lettura politica di questi fatti, un po' una lettura politica anche col senno di poi. C'è una forte preoccupazione del Quirinale per questi sviluppi, ovviamente. L'unica cosa certa che sappiamo è che con lo scioglimento delle Camere si interromperà il lavoro di questa commissione d'inchiesta. Quando ci saranno le elezioni politiche, quindi, dici Davide, quindi bisognerà capire poi come si procederà. C'è un po' di sfiducia, non poca, infatti Walter, fra i vari ascoltatori, c'è Banca Italia e Consob, si accusano sul caso delle banche fallite, e mi domando cosa deve esserci nelle altre, se questa è la sorveglianza che viene esercitata. Grazie intanto a Davide Colombo del Sole 24 Ore. Ciao Davide, buon lavoro. Ciao, grazie a voi. Ciao. E appunto dicevamo della lettura politica con la nostra Barbara Fiammeri. Ciao Barbara. Buonasera. Reazioni politiche a questo scambio di accuse, no? Con Renzi su Facebook, che ha scritto, prima ho ricordato la mozione del PD di qualche settimana fa, no? Che era stata approvata alla Camera, poi tante polemiche. Renzi oggi su Facebook ha scritto: la commissione d'inchiesta sulle banche voluta dal PD sta lavorando bene per capire chi ha sbagliato, e chi ha sbagliato deve pagare, non è populismo, è giustizia. E dice: adesso puntiamo a creare un fondo per il risparmio tradito, come chiesto dai consumatori. Orfini, presidente del PD, a sua volta ha detto: sono emersi aspetti inquietanti e gravi, c'è stata una mancata comunicazione tra Banca Italia e Consob che avrebbe cambiato la storia delle crisi bancarie. E anche questo è inquietante, no? Dire che questa mancata comunicazione, se ci fosse stata diversa, avrebbe cambiato con tutta questa vicenda e i danni anche che ne sono conseguiti. Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ha detto: dalla seduta di oggi della commissione d'inchiesta sulle banche emerge un dato inconfutabile: in Italia il sistema di vigilanza non funziona e va riformato. Con Fratelli d'Italia ha detto al governo: cambieranno le regole, la prima cosa che faremo sarà rendere pubblica l'attività di vigilanza. Vogliamo sentire anche cosa ha detto il Movimento 5 Stelle attraverso Di Maio? Due enti che dovevano sorvegliare le banche e evitare le truffe ai risparmiatori, oggi ce li ritroviamo che si accusano l'un l'altro del fatto che non hanno sorvegliato sulle banche venete o su altre banche. Questi signori, i vertici della Consob e i vertici di Banca Italia, dovevano andare a casa 2 anni fa. Che dire, Barbara, quindi? Ma diciamo, capisco che l'espressione non sarà felice, ma che una vicenda come quella che riguarda le due banche venete è una vicenda molto complessa e quando si tende a semplificare, a tagliare con l'accetta, si rischia di commettere degli errori. La cosa, secondo me, da un punto di vista politico è evidente che ciascuno, come al solito, tira l'acqua al proprio mulino. Renzi, in questo caso, rivendica la famosa mozione per la discontinuità alla guida di Banca Italia, si fa adesso paladino dei risparmiatori, dall'altra parte gli altri partiti di opposizione invece attaccano a loro volta il governo di centrosinistra guidato prima da Renzi e poi da Gentiloni e ancora prima da Letta per non aver, come dire, dato delle risposte ai risparmiatori che sono stati truffati dalle banche. Quello che diceva Davide Colombo poco fa, ovvero che poi questa commissione, che devo dire sorprende per la solerzia e per la rapidità con cui sta entrando. Questo nel vivo, dici di? Beh sì, sorprende, perché solitamente noi siamo abituati che le commissioni d'inchiesta sono secolari, stanno lì. Ma non diciamo. sono anche molto paludate. Faraginose. Sì, adesso invece assistiamo quasi a una cosa indiretta. Con telecamere a circuito chiuso che ci fanno vivere appunto in diretta quanto sta avvenendo in commissione. Insomma, anche questo devo dire è un dato che sorprende, perché appunto la vicenda è abbastanza complicata, come dicevo poc'anzi, e anche ha degli aspetti, se vogliamo, di riservatezza, perché non è che si può tutto dire si tutto può, certo. A tutti. A me sorprende anche questa rapidità, come dire, sono un pochino sospettosa, avrei un po' maliziosa. Dici quali sarebbero i retroscena, il tuo pensiero malizioso? Perché comunque, voglio dire, per esempio, non c'è dubbio che questa roba a Renzi fa gioco. Perché ci avviciniamo alle elezioni politiche. A Renzi fa gioco perché può dire, io l'avevo detto, che serviva una discontinuità. E poi ricordo anche che c'è ancora da fare una nomina, ovvero i vertici di Consob, che sono in attesa di essere rinnovati. Per cui, come dire... Consob, lo ricordo, è l'organo di controllo della borsa. Sì. Per questo dicevo, le partite poi sono sempre complesse e hanno tanti aspetti. Quanto al fatto che è evidente che la vigilanza non abbia funzionato, questo sono perfettamente d'accordo con la Meloni, quando dicevo appunto che la vigilanza non ha funzionato, sono i fatti ad averlo acclarato che la vigilanza non ha funzionato, perché se i risparmiatori fossero stati avvertiti in modo adeguato, probabilmente non sarebbero incorsi nei vari danni che hanno subito. Sì, anche perché, anche se è vero che non tutti si leggono poi i prospetti, perché lì c'è anche il discorso di essersi affidati magari al direttore dell'agenzia. Questo è vero, però insomma uno si fida, no? In più a volte sono siti talmente piccoli, neanch'io devo andare lì con la lente di ingrandimento. Barbara, poi ovviamente questa cosa vediamo come prosegue. Un'altra domanda che ti volevo fare. Una dichiarazione del Presidente del Senato Grasso, che sappiamo ha lasciato giorni fa, subito dopo l'approvazione del Rosatellum, della nuova legge elettorale, il gruppo del PD, no? E adesso insomma chiaramente sta per diventare, così si pensa, leader dei fuoriusciti del PD. Allora oggi ha detto: non so se sono uscito io dal PD oppure il PD che non c'è più. Il vero PD, ha detto, era quello di Bersani e di Sel. Ti dico, c'è Francesco che scrive: se fosse il vero PD non saprei certo, si è andati di male in peggio, eppure ce ne ha messo di tempo per accorgersene il presidente Grasso. Oppure Gaetano che scrive: Grasso si prepara a diventare il leader degli scissionisti, diciamo che arriva in notevole ritardo, loro lo accettano comunque perché è la loro unica chance di non scomparire. Qual è il tuo commento su questa, su queste affermazioni di Grassi? Ma quanto sono bravi i nostri ascoltatori? Modestamente, vero, eh? È vero Barbara. Quanto sono bravi? Siamo orgogliosi. Che il presidente Grasso certamente ha sempre più un ruolo politico che istituzionale in queste dichiarazioni. E si prepara, come appunto diceva l'ascoltatore, a prendersi in mano la guida di MDP, quindi che lui oggi dica che quello che attualmente è il leader di MDP, cioè Bersani, che il vero PD era quello di Bersani, ci sta appunto sempre. Dice funzionale al fatto che lui adesso... È funzionale, ma ricordo, perché poi le cose bisogna sempre avere una memoria storica, anche di breve periodo, perché adesso le cose cambiano improvvisamente e celermente. Ma insomma, Bersani non è che è stato cacciato dal PD, è andato via perché il PD aveva perso le elezioni. Ma anche perché anche lui stesso non si ritrovava più. Può darsi che Grasso, no, al di là no, di tutto... No, io sto parlando inizialmente, no? Quando Bersani lascia la guida del PD, sì, alla guida, sì. La lascia perché arriva da una sconfitta. Perché sto dicendo questo? Perché se ogni volta in politica, e non solo direi, si tende a, come dire, attribuire a qualcun altro le ragioni anche di una crisi, perché lì la cosa che mi viene da dire è che Renzi, tutto sommato, è stata una toppa a una crisi che era già in atto del PD, della sinistra in generale. E quindi secondo te ha evitato il peggio, italiano. Renzi, secondo te ha evitato il peggio nel PD? Ha messo una toppa in quel momento, poi come tutte le cose che vengono... rattoppate, poi alla fine si strappano di nuovo e la verità riesce a galla, e questo è quello che sta accadendo al Partito Democratico, che forse avrebbe dovuto affrontare molto qualche prima. Anno fa i problemi che oggi si ritrova. Pensiamo a Roma, è sotto gli occhi di tutti. Chiaro. Barbara è scomparsa. Barbara, che è successo? Pronto? No, ci sono. Ci sei? Vabbè, comunque ci dobbiamo salutare, almeno per salutarci, ecco. Ciao cara Barbara Fiammeri, buona Grazie serata a voi, te. Buonasera. Ciao Barbara, adesso ci prendiamo questa piccola pausa, poi tra poco parleremo dei fatti di Ostia e ci sarà anche questa giornalista di Repubblica, vi dicevo, che è sotto scorta proprio perché ha denunciato tante volte la situazione. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. State ascoltando Effetto Notte? Allora siete al posto giusto, nel momento giusto. Con voi, se volete, la giusta conduttrice Roberta Giordano. Tra poco parleremo di un altro argomento, ne abbiamo trattati diversi finora con gli ospiti, vi ho riassunto la giornata all'inizio, adesso però comunque vi rammento quali sono i fatti principali. Potete continuare a scrivere i vostri commenti nel frattempo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Scrive Felice D'Arieti: ragazzi, cosa vi aspettate ad Ostia? È un posto dove la gente si comporta come nei peggiori quartieri gestiti dalla camorra, un posto dove se dal lungomare vuoi farti una passeggiata sulla spiaggia devi pagare per attraversare il muro che delimita la spiaggia stessa e che, ricordo, è del demanio dello Stato e non privato. Poi ne parliamo tra pochissimo, intanto i fatti principali. Banche, la commissione d'inchiesta cancella il confronto tra Banca Italia e Consob, oggi solo audizioni separate, per Casini solo divergenze sulle valutazioni, non sui fatti. Ostia, ne parleremo tra pochissimo, arrestato Roberto Spada per l'aggressione alla troupe della RAI. Catalogna, la procura spagnola ha chiesto la detenzione preventiva per la presidente del Parlamento catalano, Carme Forcadell. E poi una minorenne denuncia uno stupro, un prete su Facebook scrive "non provo pietà", poi si scusa. Per il calcio, azzurri alla vigilia del primo confronto con la Svezia, siamo convinti, dice il CT, che andremo ai mondiali. E torniamo adesso a parlare di Ostia. Vi ricordate, ieri ne abbiamo parlato di questa vicenda che riguarda Ostia, ovvero quello che è successo nel decimo municipio di Roma, che in realtà, ne parlavamo ieri, è talmente esteso questo territorio e con un tale numero di abitanti che potrebbe essere considerata proprio una città a tutti gli effetti. Beh, che cosa è successo? In questo decimo municipio si è votato il 5 novembre, come si è votato anche in Sicilia, il 19 novembre ci sarà il ballottaggio, e allora lì sono andati martedì, è andata una troupe di Nemo, trasmissione di Rai 2, per fare delle interviste sul voto, sulle alleanze, su chi sosteneva chi. Ebbene, questi giornalisti, il giornalista Daniele Piervincenzi e l'operatore Edoardo Anselmi, sono stati violentemente aggrediti a Ostia da Roberto Spada, membro della famiglia Spada. Vogliamo sentire l'audio inquietante di quei momenti? La tua speranza però è che con Casapoggio cambi qualcosa. Non me ne fotte in cazzo, non me ne fotte niente. Oh. Sono due ore, ha rotto il cazzo. Ma ha rotto il naso. Ha rotto sono due ore che sta qua. Oh. Vabbè, oh, sono due ore, ha rotto il cazzo. Oh, fermo. Aia, cazzo. Fermo, oh, gli hai rotto il naso, ma hai rotto il naso. Questo è l'audio molto eloquente, poi c'è il video che lo è ancora di più. Insomma, Roberto Spada, della famiglia Spada, ha con una testata rotto il naso al giornalista con questo atto intimidatorio. Abbiamo parlato varie volte del contesto particolarmente problematico e inquietante, no? Che caratterizza Ostia da un po' di anni. La sindaca Raggi di Roma ha detto questo è stato un atto ignobile, sabato ci sarà una manifestazione contro le mafie. Il capo della polizia, Franco Gabrielli, ha detto un fatto gravissimo. Bisogna prendere nuove misure di polizia. Sentiamo anche Gabrielli. È un fatto di una gravità eccezionale che dimostra che quel territorio ha bisogno ancora di essere oggetto di attenzioni. Ci sono delle azioni che sono state fatte e vi posso assicurare azioni che nel futuro molto ravvicinato faremo. E fino al tardo pomeriggio di oggi ci si chiedeva perché non è stato arrestato da due giorni Roberto Spada, dopo quello che abbiamo visto con tutti i testimoni che c'erano. Bene, è stato proprio oggi pomeriggio fermato con le accuse di lesioni aggravate, violenza privata e con l'aggravante tra l'altro di aver agito in un contesto mafioso, contesto che conosce benissimo la giornalista di Repubblica Federica Angeli, che saluto. Buonasera Federica. Buonasera. Che racconta di questi clan di Ostia, della situazione di Ostia da tempo, e proprio per i suoi articoli è stata sequestrata per due ore, pensate, minacciata di morte. Da allora, dal 17 luglio 2013, vive sotto scorta. Cara Federica, intanto grazie della disponibilità. Grazie a voi. Quindi gli inquirenti dicono che Roberto Spada ha agito in modo così plateale davanti a tanti testimoni proprio per riaffermare il suo controllo, il suo potere sul territorio. Dicono gli inquirenti, sono proprio dinamiche tipiche, no? Mafiose queste. Sì, diciamo che dal mio punto di vista la sua risposta è stata, ha mostrato la debolezza. Cioè, quando noi andiamo a illuminare, noi cronisti andiamo a illuminare queste zone, a loro dà fastidio perché loro si muovono bene nell'ombra. E il senso di dare una testata con una telecamera accesa invece dimostra esattamente che non hanno paura di nulla. Non hanno paura di nulla perché per molto tempo sono stati ignorati. Quindi se da una parte lui ha dimostrato debolezza, nel senso che gli sono saltati i nervi e quindi non ha saputo frenare il suo istinto, perché lui è uno che con le telecamere ha sempre dato questa parvenza di persona per bene, un padre di sei bambini, lui tranquillo, che insegna alla palestra, tranquillo. E infatti la prima parte dell'intervista è tranquillo, risponde in maniera tranquilla. Ma la vera natura è uscita fuori, naturalmente, perché l'insistenza giusta, visto che non rispondeva alle domande del collega, lo ha portato a reagire in questa maniera, perché non sono capaci di reagire in un'altra maniera. Il cugino, quello che mi sequestrò per due ore, mi ha ripetuto in quelle due ore di continuo: tanto Ostia vinciamo noi. Pazzesco. Non fare cavolate, pensa ai tuoi figli. Federica, se Minniti, no, ti sparo in testa, ecco, che sono, diciamo, le espressioni loro. Appunto, più intimidatorio di così, no? Minniti oggi, ministro dell'Interno, dopo l'arresto ha detto: il fermo dimostra che in Italia non esistono zone franche. E Renzi ha detto: sono d'accordo con Minniti, lo Stato c'è. In realtà mi pare che a Ostia zone franche ce ne siano da parecchio tempo, altrimenti non si sarebbe arrivati a questo punto, no? Parlavo ieri con un altro giornalista del Messaggero che diceva che in certe aree le forze dell'ordine anche hanno difficoltà a intervenire perché si sono creati, non so proprio dire, dei fortini, no? Esatto. Ostia sicuramente ha ancora molto bisogno, come diceva il capo della polizia di interventi, e quello che è accaduto ce lo dimostra, perché altrimenti se avessero avuto una lezione forte dallo Stato, una risposta, diciamo, più un gioco di attacco dello Stato che in difesa, quindi come reazione a una loro azione, in questo senso intendo come difesa, sicuramente avrebbero agito in maniera più accorta, più nascosta. Gli altri due clan che sono su questo territorio non si comportano come loro, sono un altro livello di mafia. Il clan Fasciani non si sarebbe mai sognato di fare una cosa del genere, piuttosto avrebbero mandato la sera a casa del cronista qualcuno a cospargere la porta di benzina, ma non avrebbero mai agito così platealmente, dici? Così platealmente. Senti, il clan della famiglia Spada è di origini sinti, scrivono alcuni ascoltatori. Sì, sì, sì, vengono dall'Abruzzo e sono praticamente il ceppo madre che poi ha dato via, tra matrimoni misti, tra parenti, cugini, a tre importanti, su Roma parliamo, clan di origine sinti, che sono i Casamonica, che sono loro cugini, e i Di Silvio. Quindi anche imparentati con i temibili Casamonica. I temibili Casamonica, sì, che sono come loro, insomma, gli Spada non hanno nulla da invidiare in quanto a violenza e a cattiveria ai cugini, insomma. Mi pare che forse, come dici tu, quindi non c'è stato un intervento che ha segnato effettivamente dei limiti, dei paletti, no, da parte dello Stato, delle forze dell'ordine. Tra l'altro ricordiamo che Ostia è stata commissariata per mafia, è stato sciolto il municipio nel 2015, se non sbaglio, Federica. Ma vedi, sì sì, assolutamente, non sbagli, hai ragione. Ma vedi, quando poi dopo si legittimano attraverso la politica, movimenti politici, queste persone, si dà loro il tempo di rialzare la testa, perché sinceramente io devo dirti che da quando è arrivato Pignatone a Roma, il procuratore capo, sì, sono state numerose le operazioni fatte in questo territorio che hanno portato in primo grado a condanne importanti, dove si è riconosciuta l'aggravante dell'articolo 7, che è la stessa che gli riconoscono oggi a Roberto Spada. Quindi se però diciamo a un colpo della procura c'è il contraccolpo di un movimento o della società civile o di un'associazione che presta il fianco e dà modo a queste persone di usarli come stampella per rialzarsi, non se ne esce mai. Cioè, quello che lo scatto d'orgoglio che dovrebbe fare, avrebbe dovuto anche fare Ostia andando a votare in massa invece di 5 novembre. Era proprio questo, cioè quello di capire quale forza politica poteva comunque isolare questi clan dopo due anni di commissariamento. Invece c'è stato un grande astensionismo, ricordiamo che il ballottaggio il 19 novembre tra la candidata del Movimento 5 Stelle e una candidata del centrodestra. Tu facevi in qualche modo riferimento a Casa Pound, la forza neofascista, che però ha avuto il 9% a Ostia. Ha avuto il 9%, ma loro hanno organizzato per due anni non solo la distribuzione delle buste ai poveri, sostituendosi così a quell'azione sociale che uno nell'immaginario lo ricorda come di sinistra, ma la loro astuzia è stata quella di creare questa alleanza sociale, chiamiamola così, quindi organizzare feste nel quartiere di Spada insieme a Spada, nei manifesti che giravano quando hanno organizzato la festa della Befana di un anno fa, c'erano i due simboli di Casa Pound accanto a quello della palestra Femus, che è quella di Spada. E siccome Roberto, sì, che è la palestra di Roberto Spada, davanti a cui è avvenuta l'aggressione al collega, e siccome Roberto è una persona che in quel quartiere, Ostia Nuova, è un punto di riferimento, laddove lo Stato manca, l'antistato si fa Stato. È riconosciuto a livello sociale dalle persone che stanno lì come quello che gli risolve i problemi, come quello che se uno ha bisogno di una casa lui lo aiuta muovendo il suo clan e dicendo andate a occupare quella casa, e da quel giorno la casa è di chi si è rivolto a lui. Una specie di welfare illegale, insomma, no? Garantisce. Sì, sì. Questo, diciamo, è stato certificato e abbiamo già una condanna in primo grado per diversi esponenti del clan Spada, questa gestione del racket delle case, per questo mi permetto, insomma, di citarla e dartelo come fatto vero e non come racconto di strada. Quindi quando Spada è un punto di riferimento, il politico che si salda a lui ha garantito comunque un bacino elettorale. Non so se mi sono spiegata. Sì, sì, si è spiegata benissimo, Federica. Vedremo adesso come va questo ballottaggio il 19 novembre, sì, sperando che il primo partito non sia l'astensionismo come è stato invece il 5 novembre. Speriamo veramente. Sentiamo giusto per chiudere, Federica, la sindaca Raggi cosa ha detto, ha parlato di questa manifestazione, sì, che ci sarà sabato. Per quanto riguarda sabato, abbiamo lanciato con forza una manifestazione ad Ostia sabato pomeriggio, sarà una manifestazione senza bandiere politiche, è aperta a tutti, dobbiamo lanciare un messaggio forte della città contro le mafie e contro la criminalità. Speriamo. Federica Angeli di Repubblica, io ti ringrazio moltissimo, grazie, ti auguro buon lavoro, tanti grazie. Complimenti per la tua dirittura morale e per il tuo grande coraggio. Grazie Federica. Grazie davvero, buona serata. Ciao. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme. Prima abbiamo sentito anche la sindaca Raggi che ha annunciato la manifestazione a Ostia per sabato. Vi ricordo che c'è anche la manifestazione organizzata dalla Federazione Nazionale della Stampa e da Libera per giovedì 16 novembre sempre a Ostia. Michele scrive: ma che speranze abbiamo se tutto avviene a Roma sotto gli occhi dello Stato centrale? Pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666 per i vostri messaggi. Quindi tra le notizie più importanti abbiamo detto le banche con la commissione d'inchiesta che ha cancellato il confronto tra Banca Italia e Consob, oggi sono state le audizioni separate e poi abbiamo appena parlato dei fatti di Ostia. Catalogna, la procura spagnola ha chiesto la detenzione preventiva per la presidente del Parlamento catalano e poi calcio azzurri alla vigilia del primo confronto con la Svezia. E su questo saluto il nostro Giovanni Capuano, caro Giovanni. Eccomi, ciao Roberta, buonasera. Vogliamo sentire proprio un passaggio di Ventura che abbiamo fatto sentire all'inizio. C'è la voglia di fare, c'è la voglia di andare ai mondiali, abbiamo lavorato per questo, c'è grande convinzione da parte di tutti e siamo convinti che ci andremo. Quindi abbiamo queste due partite, noi abbiamo grandissimo rispetto della Svezia perché è nelle nostre stesse condizioni, si è guadagnata i playoff e quindi c'è grande rispetto ma c'è anche grande convinzione. Grande convinzione Giovanni, eh? Domani quindi la partita d'andata. Guarda, grande convinzione ma anche grandissima attenzione. Io direi che le cose che si possono dire della conferenza stampa di Ventura e di Buffon, tra l'altro sottolineo questa particolarità, è stato più sollecitato Buffon che il commissario tecnico della Nazionale e non soltanto dai giornalisti svedesi che ovviamente conoscono maggiormente la leggenda del numero uno della Nazionale. Io direi che i punti possono essere questi, cioè Ventura ha detto che noi andremo ai mondiali ed è quello che tutti ci auguriamo. Allo stesso tempo ha provato a fare anche professione di modestia perché questa è una partita che non va sottovalutata, la Svezia è un avversario che non va sottovalutato e non va sottovalutato nemmeno il fatto che questa partita per lo stesso Ventura sia allo stesso tempo eccitante, affascinante ma anche rischiosa, pericolosa, unica forse nella sua carriera e questo è un po' il limite di questa nazionale, io credo che Ventura stesso ne sia consapevole, non ha un palmarès Ventura di allenatore di grandissime manifestazioni internazionali e lui prima di tutto più ancora di una rosa che è composta da giocatori, qualcuno è stato campione del mondo, hanno fatto finale di Champions League, hanno vinto scudetti, hanno giocato tante partite nelle coppe europee, lui più di tutti tra domani sera e la partita di domenica di lunedì sera a San Siro si gioca la carriera e quello che lascerà di se stesso. Se vuoi ti do una notazione di formazione che ovviamente Ventura non ha dato, ha detto però che spera di recuperare Zaza che da tutti fino a due ore fa veniva considerato non disponibile per la partita di domani sera e se non dovesse giocare Zaza ha fatto capire che l'alternativa non sarà Eder ma sarà Belotti. Bene, grazie Giovanni Capuano con queste notizie in anteprima. Ciao Giovanni, quindi appuntamento a domani e a lunedì. Noi intanto ci sentiamo alle 22.